Gente che saluta solo con i guanti, e qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera e benvenuti alle buonanotte di allineamenti. Siete qui con Gas, che questa settimana sarà da solo ad accompagnarvi in questa buonanotte di Ciao Radio Como. Purtroppo non ci sono né Mendo né Marco qui con me. Però Marco in qualche modo ci sarà questa sera, perché mi ha passato la poesia da leggervi. È una poesia legata a un paradosso, naturalmente, visto che Marco è il capitano dei paradossi. È una poesia legata al risveglio senza mattino. Non vi sono mai capitate delle situazioni assurde come essere svegli ma sognare ad occhi aperti, o dormire ma muoversi, o essere stanchi ma lo stesso giocare e fare una partita a calcio? Quante cose facciamo al contrario di quello che dovremmo fare, contro la natura, di quello che porterebbe la linearità a seguire il suo corso? Ma prima di leggervi Risveglio senza mattino di Marco Catania, volevamo farvi ascoltare una canzone di un artista che ha nel testo la sua più grande forma d'arte, oltre che naturalmente nella canzone. Stiamo parlando di Morvutu e vi lasciamo all'Armata perduta di Re Cambise. Ci sentiamo tra pochissimo con Il risveglio senza mattino di Marco Catania. A tra poco. Silenzio che incanta, una voce canta stanca, segue il senso della sabbia, giunse lento e scaldo l'aria. Non lo videro, non lo udirono, lui li raggiunse in un soffio, ogni corpo svanì. Simula, simula, cala, poi simila, sale, supplico e ricopre ogni linea. Il sole era già sceso da tempo sulle sfinge egizie, quando Cambise decise di annettere e prendersi tutte le terre limitrofe. Solo un'ultima tappa resisteva, l'ascesa del figlio di Ciro, un'oasi ricca di date e acqua, la sulla lunga valle del Nilo. Dopo aver superato il Sinai e Sisino, lì piegato ogni stato, dopo aver ucciso il faraone e trucidato il toro sacro, lui Cambise non pagò, con un solo cenno del capo ordinò di radere al suolo e mettere a fuoco il noto luogo dell'oracolo di Amon. Giunse dal vuoto al tramonto di fuoco e travolse col suono ogni corpo sul suolo. E fu la brama di un re sadico, avido di potere teocratico, o per vendetta sull'oracolo magico che volle prevederne il parto. Ma una volta giunto a Tebe, divise le truppe in due gruppi, due schiere, poi spinse la prima verso Nubia, l'altra verso Cirene. Avanzava ignara la carovana umana, frustata dalla lama dell'Afa. In un deserto aperto una nenia berbera suonava lontana. 50.000 tra mercenari lamiti, greci, fenici, marciavano verso i confini uniti alla stessa armata persiana. Come al centro di una danza, sali in cerchio l'aria calda. Giunse il vento sulla landa, li travolse e volse all'alba. Non lo videro, non lo udirono, lui li raggiunse in un soffio, ogni corpo sparì. Simula, simula, cala, poi simila, sale, supplico e ricopre ogni sì. Quando avvertirono il primo soffio, da sotto i soldati non ebbero cura. Erano veterani del deserto, esperti, abituati ad afe d'arsura. Ma dopo 7 giorni di marcia, fra le secche di sabbia, videro l'oceano bianco notare faccia sull'altura di ogni duna. Conoscevano i rischi delle spire del mare di sabbia fine, le colline che si aprivano creando slavine improvvise fra le file, le lande di rena sottile che inghiottivano vite a decine. L'ordine di proseguire fece fuggire le stesse guide beduine. Giunse dal vuoto al tramonto di fuoco e travolse al suo suono ogni corpo sul suolo. Ardeva il mare bianco, solcato da sciami di grani fini, scambiato nell'abbaglio del sole alto come soffio calmo del Ghibli. Ma il cielo si fece viola in un'ora per la sabbia in sospensione, procedendo da ogni roccia rosa all'invasione di nasi e gomme. I primi morti avvolti dalla furia dei forti vortici fra i mani, salti, calci delle bestie, rese foglie liberatesi dai carichi. I soldati caddero esanimi, molti sepolti dai grani bianchi. Il silenzio dei corpi sotto le nuove forme ridisegnate dal Kamis. Nel silenzio che ti incanta, una voce canta stanca. Segui il senso della sabbia, giunse lento e scaldo l'aria. Non lo videro, non lo udirono, lui li raggiunse in un soffio, ogni corpo svanì. Risveglio. Risveglio senza mattino. Non avete sentito il sentimento risentito? Non avete rimpianto il pianto compianto? La nuova fratellanza, i conoscenti inimicati, le bellicose belligeranti. Quanto ancora v'è dell'esservi che è, e quanto ancora sta nello stare che ristà. La mia fiacca si esaurisce, il mio esaurimento si infiacchisce. Della vita che muore è la morte che vive, mentre le nature si snaturano e le compostezze si scompongono. Ho del risentimento nel risentirmi, un approccio proclive all'intemperanza stemperata intemperante, dedicata alle dedizioni, come il catrame che si articola nelle vene, a ingrossare il sangue nel suo defluire in deflusso, infisso negli organi argivi, nel ferro infuocato, afferrati dalle fiamme. Le labbra minute, i minuti sbrallati, le pieghe impiegate, tutto questo possibile non è mai probabile. Quanto è sicuro non è ancora certo, e quel che è certo solo per certe certezze. Ardirò ardire, ardente e sconsolato, nei consigli diurni, dove i giorni si aggiornano, dove le menadi braccate e le baccanti menate spezzano le orifiche carni saggiando il dolce veleno della lira che spira. Raccolgo i raccoglimenti raccolte di racconti, vedo guardare la vista vedendola invisa, invisibile, invisibilio, inaudita negli auditori. Rimane ancora ancorata la speranza che semina deficienze, che decima deficienze. Oggi annegherò nelle negazioni, splendendo plausi plausibili, con i censori incensurati, con le polveri asciutte e la scoppia che mi accoppa. Ieri è già domani, e oggi è soltanto oggi. Non vedo trascendere i riversi, riverirò le trascendenze, trascenderò le riverenze. Bacco all'addiaccio, duccio al bacio. E con questo risveglio senza mattino, con questa fiacca che si esaurisce, con questo esaurimento che non muore ma si infiacchisce, questa morte che vive, questi sentimenti dei risentimenti, con queste contraddizioni, con queste spinte contrastanti, io questa sera vi auguro una buona notte da Allineamenti e da Ciao Radio Como. Ci risentiremo questa settimana, continuando il viaggio, anche se non ci saranno Mendo e Marco qui con me, ci saranno le loro poesie. Leggeremo Marco Catania e Giuseppe Lorenzetti. Buonanotte a tutti. Qui era Gas che vi parlava. Buonanotte. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di Allineamenti.